Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia, grazie a Radio Big World. Come abbiamo detto, stiamo creando un percorso in cui avventurarci e oggi vi propongo qualcosa di diverso dal solito. Parliamo di esplorazione. Voglio fare l'esploratore come il grande Magellano. Oh, è troppo tardi, non c'è più niente da esplorare. Christoph, le voglio chiedere, secondo lei per quale motivo Truman non è mai riuscito a scoprire la vera natura del mondo in cui ha vissuto finora? Noi accettiamo la realtà del mondo così come si presenta. È molto semplice. Era un pezzo ripreso da The Truman Show, quando lui è piccolo a scuola e dice che vuole essere come il grande Magellano. E gli viene detto che non c'è più niente da esplorare, quindi non farti domande, non cercare. A parte che per fare come ha fatto Magellano, che ha fatto il giro del mondo, ma se andiamo a vedere la mappa della Terra piatta, che è quella navale, quella delle Nazioni Unite, ci rendiamo conto che basta fare un cerchio per fare il giro del mondo. Nord-sud non l'ha mai fatto nessuno, nessuno ha mai fatto nord-sud, ma solo est e ovest. Detto questo, questo a cosa serve? Serve a presentare un grande personaggio. Grande personaggio che sicuramente in pochi conoscono o ne hanno a malapena sentito parlare o sanno dell'esistenza di questo personaggio. È un militare, ma soprattutto un esploratore, e mi riferisco all'ammiraglio Richard Byrd. Perché ci interessa questo personaggio? Perché era un grande esploratore ed è stato il primo e l'unico a esplorare il Polo Sud. Questo nel 1929. Riguardo a questo vi volevo proporre un pezzettino di un'intervista fatta in TV nel 1947 al ritorno dal Polo Sud. Poi commentiamo quello che dice. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And it's, I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous challenge. So there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Well, Admiral, do you hope to see that? I do. Because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. Admiral, you speak of the resources of Antarctica. What are they? What are the natural resources there? Well, we've found enough coal within 180 miles of the South Pole in a great ridge of mountains that's not covered with snow, enough to supply the whole world for quite a while. Well, that's the coal. Now, there's evidence of many other minerals. We are pretty sure there's oil. Now, that coal shows the bottom of the world. Now, by far, the coldest spot in the world. Where that coal is gets 100 below zero in the world. Well, it was once tropical, so we think there's oil there and there's evidence, probably uranium there. Quindi rieccoci qui. Cosa gli viene chiesto all'ammiraglio Byrd? Gli viene chiesto se c'è altro da esplorare al mondo. E lui cosa risponde? Dice: sì, c'è altro da esplorare, perché al di là del Polo Sud c'è un'area grande almeno quanto gli Stati Uniti che non è mai stata toccata da nessuno e che ha di importante quello che dice l'ammiraglio Byrd. Dice che ci sono importanti minerali, per esempio il carbone. Dice che c'è una quantità per abbastanza per tutto il mondo per molto tempo. Probabilmente uranio, sappiamo l'uranio a cosa serve, e altri minerali importanti. Quindi dice che c'è questa riserva naturale intoccata al di là del Polo Sud. Dà da pensare perché una persona come l'ammiraglio Byrd dovrebbe dire una baggianata, no? Se oggi qualcuno dicesse una cosa di genere viene preso per pazzo, però ai tempi nel 1947 era stato preso sul serio. Quindi cosa è successo dopo questo? Questa è l'unica intervista che c'è dell'ammiraglio Byrd, perché poi ci sono state varie spedizioni militari al Polo Sud, c'è stato, magari ne parleremo più avanti di queste spedizioni. Cosa c'è stato? Perché c'è il trattato dell'Antartico. Per quale motivo c'è questo trattato e riguarda tutte le nazioni del mondo? Laggiù sono tutti d'accordo, qua si fanno tutti la guerra, ma là sono tutti amici, si stringono la mano, vanno a fare le feste al Polo Sud, ci va anche il Papa. Ma qua invece si offendono, si prendono in giro, spionaggi, si fanno la guerra, test missilistici, ma giù al Polo Sud sono tutti tranquilli, tutti amici, tutti fratelli. Per quale motivo? Allora, o sono tutti d'accordo, in qualche maniera c'è un qualcosa che ci nascondono, perché l'ammiraglio Byrd dice che ci sono minerali, una grande quantità di minerali importanti, olio, probabilmente uranio e chissà cos'altro, perché dice che al di là del Polo Sud c'è una terra emersa grande almeno quanto gli Stati Uniti. Ora, questo l'ha mai verificato nessuno? No. Uno dice, ma ci sono i satelliti che possono vedere? No, quello che ti fanno vedere immagini al computer del mondo in cui pensiamo di essere. Perché se andiamo a zoomare al Polo Sud da Google, da satelliti, da quello che volete, non vediamo tutto. Tante immagini sono oscurate. Perché sono oscurate? Perché ci sono delle basi militari. C'è questo trattato che hanno fatto tutte le nazioni di mondo, il trattato dell'Antartico, l'Antarctic Treaty, viene chiamato, in cui praticamente è guardato dalle guardie, cioè le guardie. La persona comune come noi non può prendere e andare là a dire voglio andare a esplorare, non te lo fanno fare. Cosa ti fanno fare? Ti fanno fare delle visite guidate, sotto autorizzazione ovviamente, e sei guardato a vista. Non puoi esplorare liberamente. Per quale motivo? Perché io posso andare e prendere, posso andare in un bosco qualsiasi del mondo senza nessuno mi dica niente, ma al Polo Sud non ci posso andare. Posso andare al Polo Nord, ma al Polo Sud no, è guardato a vista, c'è le guardie. C'è chi ci ha provato a esplorare il Polo Sud, ma non ha fatto una bella fine, perché sono tutti morti. Quei pochi che hanno provato a esplorare il Polo Sud sono morti in circostanze misteriose. Quando parlo della menzogna, non parlo solo della menzogna riguardo alla forma del mondo in cui viviamo, ma alla menzogna in generale. La menzogna, ci nascondono delle cose, ci nascondono dei fatti, delle cose scoperte. Chi ci aggiorna? Ci aggiorna i governi, sono i governi, le agenzie governative ci diano le nuove scoperte. Noi cosa facciamo? Noi andiamo a lavorare, torniamo a casa, guardiamo il telegiornale, leggiamo i giornali. Quello che conosciamo, lo conosciamo perché ci è stato detto. Ci è stato detto da chi? Da chi diamo fiducia. Gli diamo fiducia, crediamo a quello che ci viene detto. Come a scuola crediamo al professore che ci dice che ai tempi di Colombo pensavano che si potesse cascare dal bordo, quando invece se andiamo a informarci per bene è ridicolo pensare che ai tempi di Colombo pensavano tu cascassi dai bordo, perché non la pensavano assolutamente in quel modo. Ci sono mappe antichissime in cui non c'è nessun bordo, ma è un circolo chiuso, perché ti devono insegnare una cosa sbagliata come questa, perché è sbagliatissima. Cresci con l'idea che ai tempi di Colombo ci potesse essere bordo e tu cascassi di sotto, ma è ridicolo. Perché ti fanno crescere con questa convinzione? Infatti quando dico a qualcuno guarda che la terra non è un globo, mi dicono tutti allora si casca dai bordo, dov'è il bordo? No, non è che c'è il bordo, non è che caschi di sotto, sei convinto di qualcosa che non è mai esistito. È un'informazione questa che non è mai esistita, quella del bordo. Nessuno ha mai pensato ci fosse il bordo. Le cose stavano in modo diverso, okay? E qui che dico il controllo mentale della persona. Molte persone pensano che la terra piatta sia un'idiozia, come lo pensavo anch'io, ma ho iniziato a fare ricerche, ho iniziato a imparare le cose da solo, iniziare a farmi domande, a cercare le risposte per conto mio, senza dipendere da nessuno che mi dicesse a cosa credere. Ho iniziato a pensare con la mia testa, e da molti di noi è stato chiesto di fare lo stesso. Come dico sempre, non fidatevi, ma fate le vostre ricerche. Forse siamo arrivati a qualcuno, perché molti adesso si chiedono il perché di molte cose che prima neanche vedevano o pensavano che esistessero. Il punto principale di questo discorso è: pensa con la tua testa. Ora, può sembrare semplice questo concetto, ma in realtà può essere una sfida e spesso richiede coraggio, perché non abbiamo più molteplici punti di vista, ma uno solo collettivo, e ci lasciamo trasportare dal pensiero più comune, aggregandoci senza fare domande, accettandolo perché tutti lo accettano. Pensate con la vostra testa. Pensare con la nostra testa significa porre domande su concetti dominanti, come può essere il globo, nonostante tutti trattino l'argomento come indisputabile. Essere convinti di una cosa non perché tutti la vedono in quel modo, ma perché ci siamo impegnati per capire da noi e trovare le risposte per conto nostro, con le nostre forze. L'amore per la vita, per la verità, e il desiderio di ottenere questa verità dovrebbe essere abbastanza per motivarvi, per pensare con la vostra testa. Una mente aperta, una capacità critica e dibattiti sono essenziali per scoprire la verità. Non dobbiamo avere paura dell'opinione pubblica come intrappolati in una scatola, e alla fine o rifiutiamo o lo accettiamo, non perché qualcuno ce lo ha detto, ma perché abbiamo preso una scelta per noi stessi. L'educazione oggi serve più che altro per creare uno standard di persona. L'educazione è di per sé una forma di propaganda, non per indurre ad usare la propria testa, ma per riempirla di cose belle e pronte. L'idea è di fare buoni cittadini, docili, che non pongono domande e accettano le cose così come gli vengono date. Ora vi chiedo, quanti di voi pensano con la propria testa? Aprite la mente, c'è della verità all'interno. Dall'Arcadia è tutto, io sono Gabriele, grazie a Radio Big World e alla prossima!